Alla redazione partiamo proprio da qui, dalle donne, da questo 8 marzo in primo piano al Quirinale, dalla nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno Narita. Donne italiane ancora lontane dalla parità, soprattutto le giovani donne italiane. In occasione dell'8 marzo, durante la tradizionale cerimonia in Quirinale, il capo dello Stato ricorda dunque il ritardo del nostro paese nella parità di accesso ai luoghi di lavoro, alla rappresentanza politica, ai ruoli decisionali nel pubblico e nel privato. Parità che sottolinea è uno dei principali indicatori del grado di salute di una democrazia, ma per conquistarla non bastano leggi, occorre una rivoluzione culturale. Sentiamo allora uno dei passaggi più applauditi del suo intervento. Credo che per raggiungere una parità sostanziale sia necessario incidere essenzialmente sulla cultura diffusa, sulla concezione del ruolo della donna, sugli squilibri persistenti e capillari nelle relazioni tra i generi, su un'immagine consumistica che la riduce da soggetto a oggetto, propiziando comportamenti aggressivi che arrivano fino al delitto. E dunque no alla donna oggetto, le donne, ammonisce, devono esigere rispetto, devono rendersi protagoniste di un'opera di rinnovamento morale, ma non manca poi un richiamo anche agli uomini che, dice il capo dello Stato, non possono restare estranei o indifferenti alla battaglia per una vera parità fra i generi. E dal Quirinale è tutto, a quella linea. Grazie Alessandra. Ed il Senato si accinge a varare proprio oggi la legge che stabilisce la presenza di almeno un terzo delle donne nei CDA delle aziende quotate in borsa e nelle società a partecipazione pubblica, da realizzare gradualmente con i rinnovi dei consigli di amministrazione. Ieri l'intesa sulla conciliazione tra orari di lavoro e famiglia. Più flessibilità, più part-time, lavoro anche da casa. È questa la ricetta che governo e sindacati proveranno a mettere in campo per rilanciare l'occupazione femminile, che in Italia crolla con la nascita di uno e ancor più due figli. Solo un primo passo, vale dirlo. Ieri sera è stato raggiunto un accordo di massima. Le parti si sono impegnate a trovare soluzioni concrete entro 90 giorni, che poi dovrebbero essere recepite nei contratti nazionali. Tre i punti principali: il telelavoro come alternativa ai congedi parentali facoltativi o ancora part-time in sostituzione dei congedi, che potrebbero passare così dai 6 mesi di oggi ai 12 mesi. Ancora, orari flessibili in entrata e uscita per madri e padri entro i primi 3 anni del bambino. E infine, contratti a tempo ridotto per genitori con figli fino a 5 anni o per assistere familiari. Per ora tutti i sindacati hanno detto sì. Ora si tratterà di aprire il tavolo in cerca di un accordo. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla famiglia, sui risparmi delle famiglie italiane, le elaborazioni della Banca d'Italia contenute nel bollettino Moneta e Banche. Meno depositi e più prestiti a costi maggiori è il quadro delineato dalla Banca d'Italia sulla situazione finanziaria delle famiglie italiane. A gennaio, infatti, i prestiti bancari sono aumentati del 5% su base annua, in calo dell'1,7% i depositi dell'intero settore privato, che include anche le famiglie. Sempre a gennaio, in aumento i tassi sui mutui, dal 3,18% di fine 2010 al 3,36%. In aumento anche i tassi sul credito al consumo, scendono gli interessi riconosciuti sui conti correnti, siamo allo 0,35%. Dura la critica delle associazioni dei consumatori, come sottolinea Elio Lannutti, presidente Adusbef. La situazione delle famiglie italiane, che sono in piena crisi e che fanno da ammortizzatori sociali, anche sui tassi di interesse che sono i più alti d'Europa, su una raffica di rincari allo sportello, e naturalmente le banche scaricano la loro inefficienza sulle spalle delle famiglie. Chiara Di Cristofaro, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dati economici oggi anche sui fallimenti. Nel 2010 in Italia sono fallite più di 11.000 imprese. È il valore più alto da quando, tra il 2006 e il 2007, è stata riformata la disciplina sulla crisi d'impresa, che di fatto ha escluso un numero rilevante di piccole aziende dall'ambito di applicazione della legge. Lo comunica uno studio di Cerved Group, secondo il quale le procedure di bancarotta sono aumentate di circa il 20% rispetto al 2009. E adesso ci spostiamo in Libia, in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorno, che si trova a Bengasi, dove questa mattina, Roberto, è esploso un ordigno vicino all'albergo dei giornalisti. Buona giornata, cosa è successo? Sì, stanotte c'è stato questo piccolo digno lanciato proprio dall'hotel dove dormivo io, insomma, dove davano tutti i giornalisti all'uso. Della verità è stato lanciato da una macchina in corsa, distrutto un paio di vetrate, ma non è stata una cosa così grave, tant'è che ho sentito solo un piccolo botto. Però è un messaggio probabilmente da parte di persone fedeli a Gheddafi o da infiltrati, come tuona l'opposizione, il governo di opposizione qua, che cercano comunque di far deragliare il percorso verso la rivolta da parte dell'opposizione. Roberto, si continua a parlare della proposta di Gheddafi di possibili dimissioni e poi del rifiuto dei ribelli, ma secondo te è un'ipotesi praticabile? Ma è tutto abbastanza confuso. La televisione di Stato libica ha assolutamente smentito oggi che Gheddafi vorrebbe negoziare un salvacondotto. Il governo de facto della Cirenaica, comunque il Comitato Nazionale, in principio ha mentito che anche loro vogliono trattare con un salvacondotto con Gheddafi. Poi questa mattina siamo di fronte al tribunale, alla loro sede, parlando con un po' di persone che sono vicino ai membri del comitato che per ora stanno nascosti, ci hanno detto possiamo parlare di resa, ma solo se Gheddafi se ne via e solo se parliamo noi direttamente senza mediatori. Insomma, però ci sono molte notizie confuse. Grazie Roberto, buongiorno, in diretta da Bengasi. Parliamo della benzina adesso, che nel sud oggi ha toccato 1,61 euro al litro. Prima di prendere provvedimenti per far fronte al caro benzina ci vuole un tavolo tecnico che possa valutare ogni provvedimento che prendiamo e le sue ricadute. Lo ha detto il ministro Altero Matteoli, che in merito alla decisione del governo spagnolo di ridurre i limiti di velocità e le tariffe del trasporto ferroviario, ha precisato che non gli sembra una soluzione possibile in Italia. Sentiamolo al microfono di Andrea Salomone dell'agenzia di stampa Radio Cor. Però abbiamo le tariffe dei treni più basse di tutti gli altri paesi europei, quindi è un po' difficile anche qui. Se vogliamo realizzare le ferrovie più efficienti, più efficaci, più all'altezza, dobbiamo, se abbassiamo i prezzi, ci mancano le risorse. L'Italia, tra tutti i paesi europei, per quanto riguarda il prezzo del biglietto ferroviario, siamo tra coloro che pagano meno. E il ministro aveva parlato ieri durante l'inizio dei lavori della linea alta velocità tra Treviglio e Brescia sulla linea Milano-Venezia. Ieri è stata raggiunta, ieri sera, l'intesa per l'avvio dei cantieri del primo lotto per un valore di oltre 700 milioni di euro. Sempre al microfono di Andrea Salomone dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Cor, ascoltiamo l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. È un lotto costruttivo ben posizionato perché sta sulla parte di corridoio quinto più congestionata d'Europa, cioè il pezzo che sta tra Milano e Padova, Treviglio e Padova, la parte non ancora fatta, in particolare tra Brescia e Milano, dove non abbiamo più una traccia libera per far circolare i treni a partire da quelli pendolari, quindi è un quadruplicamento in questo caso della linea, che dovrà naturalmente estendersi oltre Brescia verso Verona e Padova per completare tutta la parte di alta velocità Venezia-Milano e poi estendersi anche oltre rispetto ai progetti che vi sono. Opera importante la Treviglio-Brescia per la quantità dell'importo, quello contrattualmente oggi previsto di 1,4 miliardi, l'intero pezzo Treviglio-Brescia vale 2 miliardi, che abbiamo fatto con dei sistemi tecnologici avanzatissimi, già sperimentati nelle altre tratte, che oggi sono il massimo che si possa vedere in giro per il mondo, talché li stiamo offrendo come sistema Italia per i nostri fornitori in tutto il mondo, dalla Cina all'America, senza nessuna esclusione. Torniamo alla crisi libica, soprattutto al fronte sbarchi. Oggi a Lampedusa condizioni meteorologiche proibitive, prevedibilmente non dovrebbero arrivare nuovi immigrati, però nelle ultime ore ne sono arrivati oltre 1,200. Allora noi ci colleghiamo subito in diretta con Lampedusa con l'inviato del Sole 24 Ore, Mariano Maugeri. Mariano, buona giornata. Buongiorno a voi. Mariano, possiamo allora dire che forse oggi sul fronte sbarchi potrebbe essere una giornata tranquilla? Sì, dovrebbe essere così. L'ultimo sbarco c'è stato stanotte alle 2 della mattina, erano in 83, tutti in buone condizioni fisiche, E proprio qualche ora fa si è concluso un vertice qui al centro di accoglienza di Lampedusa, erano presenti il prefetto di Palermo Caruso, che è anche commissario straordinario per l'emergenza, e il questore di Agrigento. Il prefetto Caruso ha annunciato che già da domani potrebbe partire lo spostamento di tutti gli immigrati che sono accolti nel centro di accoglienza, nei vari centri di accoglienza richiedenti asilo, al centro di Mineo, che come sappiamo occupa 7.000 persone, e dovrebbe prevedere questo spostamento la cifra di 2.000 immigrati, appunto, che si muoveranno dai vari CARA sparsi per l'Italia verso Mineo, in modo poi da consentire agli immigrati che via via stanno raggiungendo Lampedusa di muoversi alla volta di questi centri, che a quel punto saranno liberati da chi li ha preceduti. Quindi domani si dovrebbe arrivare ad un inizio di soluzione. Intanto oggi il centro di accoglienza sarà stracolmo? Oggi il centro di accoglienza è stracolmo e comincia a risentire anche di condizioni igieniche precarie. Siamo entrati dentro, ovviamente non visti la polizia che sorveglia, e le camerate, diciamo, sono molto sporche, dormono su materassi di plastica, c'è una lunga fila alla mensa. È evidente che questa emergenza continua sta mettendo sotto pressione un centro che al massimo potrebbe ospitare un migliaio di persone, 800, invece sono, come sappiamo, molti di più. Grazie a Mariano Maugeri del Sole 24 Ore da Lampedusa per questo aggiornamento. In una libreria Feltrinelli, gremita per la presentazione del suo ultimo libro, Vieni via con me, ieri sera a Genova Roberto Saviano è tornato ad attaccare la figlia del presidente del Consiglio Marina Berlusconi. Saviano ha parlato di mafia, di Falcone e Borsellino, ma anche del sindaco di Acciaroli Vassallo, eroe dimenticato. Sentiamo un passaggio dell'intervento di Saviano. Giovanni Falcone resiste a 20 anni di attacchi mediatici violentissimi e pretestuosi, tant'è vero che solo il tritolo lo ferma. Un tritolo che viene messo lì, se leggete gli atti poi dell'inchiesta, anche perché lo credevano ed era solo. È una delle cose che dice Brusca. Quando il giudice, interrogando Brusca, pentito, gli dice: ma non pensavate che una cosa del genere distruggeva la vostra dirigenza corleonese? Far saltare un'autostrada, poi uccidere Paolo Borsellino, non pensavate che tutto questo fosse, come dire, una mossa finale, kamikaze? La risposta è no, perché era già successo. Avevano ammazzato Rocco Chinnici al centro di Palermo, non so, forse non mi è neanche capitato di mai sentire il suo nome, e non per colpa vostra, alcuni sì, alcuni no. Vassallo è il sindaco di Acciaroli, ammazzato, sto parlando di manciata di mesi fa, ammazzato perché si è opposto al narcotraffico. Avete forse visto manifestazioni, fiaccolate, indignazione, dirigenti della sua area che tutti i giorni, quando vanno a qualsiasi parte, citano il suo nome? Mai, nulla, niente, ogni tanto qualcuno. Ma questo perché avviene? Per cattiveria? No, magari fosse così. Una volta che individui l'errore lo risolvi. Avviene perché ci si è disabituati. Non c'è nessuno che ti impone di tacere. Le 13:17, Ndrangheta, 41 arresti nel mondo, coinvolto anche l'ex sindaco di una città australiana. 8 marzo, Napolitano, immagine consumistica riduce la donna ad un oggetto. Libia, gli insorti, rifiutiamo l'offerta di Gheddafi, tratteremo solo quando se ne andrà. E poi la Champions, Roma chiamata stasera al miracolo contro uno Shakhtar che in casa non perde da 29 mesi. Ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Questi i nostri titoli e noi partiamo proprio dalla Calabria. 41 ordinanze di custodia cautelare con arresti di affiliati in Calabria, ma anche in Germania, Canada e Australia. L'operazione Il Crimine 2 della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio conferma il forte radicamento dell''Ndrangheta non solo in Italia ma anche all'estero, come ha spiegato a Radio 24 Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Reggio Calabria. L'intervista è di Paola Andania. La conferma dell'espansione non solo sul piano del traffico internazionale di stupefacenti, ma proprio sul piano dell'associazione mafiosa dell''Ndrangheta anche in altre regioni fuori dall'Italia. Ecco, come sono organizzati i gruppi, le 'ndrine fuori dal territorio calabrese? C'è una perfetta riproduzione dell'organizzazione calabrese. L'unità di base è sempre quella che viene definita locale, e poi da queste locali estere si mantengono sempre i contatti con la casa madre, cioè con la provincia di Reggio Calabria. dove periodicamente vengono a prendere ordini, a direttive, strategie di lungo periodo, a rendicontare quello che avviene. Questo mi pare il dato fondamentale. Quindi il fulcro rimane comunque la Calabria, la provincia di Reggio Calabria in modo particolare? Senza nessun dubbio, questo è quello che emerge con sicurezza sia dalle indagini culminate a luglio sia da quest'altra. Il commento dalla Calabria su questa importante operazione di Filippo Veltri. L'operazione Crimine 1 del luglio dell'anno scorso aveva portato alla luce la potenza e la ramificazione dell'andrangheta in Italia, da Reggio Calabria a Milano e soprattutto in Lombardia aveva avuto i suoi effetti più clamorosi. L'operazione Crimine 2 di questa notte, portata a termine da polizia e carabinieri, dimostra per l'ennesima volta come la diramazione dell'andrangheta più forte è addirittura all'estero. È stato arrestato un ex sindaco in Australia, Tony Vallelonga, di una cittadina non distante da Perth, ma arresti sono stati seguiti soprattutto in Germania, 31 persone dai carabinieri, ma anche in Canada. Insomma, la dimostrazione, come sostengono gli inquirenti regimi con in testa il procuratore capo Giuseppe Pignatone, che l'andrangheta ormai è una multinazionale del crimine e bisogna attendersi nuovi sviluppi nei prossimi mesi che porteranno alla luce la potenza definitiva nel settore economico e istituzionale della mafia in Calabria. La politica adesso, giovedì la riforma della giustizia, il dibattito è in corso. Oggi Bersani intanto presenterà la manifestazione Berlusconi dimettiti. Mondo politico che guarda giovedì quando sul tavolo del Consiglio dei Ministri arriverà la riforma della giustizia. Si tratterà di un intervento costituzionale con al centro la separazione delle carriere e il doppio CSM. Ieri sera intanto il nuovo incontro tra Berlusconi e Bossi, il carroccio preme per ottenere l'elezione dei magistrati onorari con funzioni di PM e quella dei capi degli uffici giudiziari. Il premier avrebbe in cambio il via libera in tempi rapidi del provvedimento sulle intercettazioni, forse già ad aprile. L'opposizione in tutto ciò sta alla finestra in attesa dei contenuti della riforma della giustizia. Se il testo è serio, ci sediamo al tavolo, commenta Casini, leggeremo la proposta, dice Violante dal PD. Partito Democratico che intanto nel pomeriggio scenderà in piazza a Roma in occasione dell'8 marzo, l'appuntamento a Piazza di Pietra alle 16.30 dal titolo Oltre Arcore c'è la dignità dell'Italia, rientra nell'iniziativa nazionale di raccolta firme per le dimissioni del Presidente del Consiglio. Al termine della manifestazione una delegazione del PD consegnerà a Palazzo Chigi le firme raccolte. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Riforma della giustizia dunque addirittura d'arrivo, il sondaggio di Bianco e Nero di oggi era dedicato proprio a questo tema. La domanda: i magistrati si mobilitano contro la riforma della giustizia, fanno bene? Avete risposto sì per il 55%, no per il 45%. Nel corso di un programma TV che andrà in onda il Venerdì Santo sulla Rai, il Papa risponderà ad alcune domande dei fedeli su Gesù. Lo ha confermato questa mattina la sala stampa vaticana. È la prima volta che un pontefice decide di rispondere in televisione direttamente a domande dei fedeli. E parliamo ancora di TV, ma per un'altra questione, quella di Tiziana Ferrario, che può tornare a condurre il TG1 e a ricoprire le mansioni di inviata per i grandi eventi. È il più bel regalo che potesse ricevere per la festa dell'8 marzo, ha detto la giornalista, dopo mesi ha aggiunto di dolorosa solitudine e umiliazione come donna. Tagliente però la replica del direttore del TG1 Minzolini. La Ferrario dice di essere in festa, ha dichiarato ieri, ma sicuramente saranno in lutto le giovani potenziali conduttrici cui lei stessa ha impedito di avere una carriera, restando incollata a quella poltrona per 28 anni. Questa mattina Alessandro Milan ha intervistato Maria Luisa Busi, un'altra conduttrice Rai che per i problemi avuti proprio con Minzolini ha lasciato il TG1 migrando a Rai 3. Sentiamo cosa ha detto. Io sono molto contenta. Esiste la solidarietà femminile, esiste, anche se le donne purtroppo non sanno fare lobby nel nostro paese, ma insomma tra noi ci stimiamo e ci vogliamo bene. Ha vinto una battaglia che conduce da un anno, ha detto giustamente che è una battaglia che condivide anche con tutti coloro che al TG1 ancora credono nella professionalità e nel diritto dovere di un giornale servizio pubblico di essere davvero plurale. Ha detto per la verità che saranno in lutto tutte coloro alle quali la povera Ferrario ha occupato il posto, ha impedito di andare avanti, ma mi sembra un'affermazione talmente volgare che non ritengo che non meriti neanche commento. 8 marzo, cosa sarebbe l'arte senza le donne? Con questo slogan e proprio per comprenderne il ruolo centrale, oggi il Ministero dei Beni Culturali celebra l'8 marzo con l'ingresso gratuito nei siti culturali statali, musei, aree archeologiche, biblioteche ed archivi, a tutte le donne. Il direttore generale per la valorizzazione dei beni culturali, Mario Resca, al microfono di Adriana Fracchia. Questa è un'iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali e riguarda tutti i musei del nostro Ministero, sono circa 450 in tutta Italia, gli Uffizi, Brera, Palazzo Barberini, Palazzo Reale Napoli. Tutte le donne vengono festeggiate con l'ingresso gratuito, quindi festeggiate la festa delle donne, i musei sono aperti per voi gratuitamente e questo vi consente di iniziare anche un percorso emozionante che è quello che offre il nostro enorme, incredibile patrimonio artistico e culturale che sono custodite all'interno dei nostri musei, dei nostri siti archeologici, delle nostre biblioteche di Stato, anche gli archivi, e quindi questo è il modo in cui noi festeggiamo e onoriamo questa bellissima festa, l'altra metà del cielo, cosiddetta, che è il sesso femminile. Tutte benvenute quindi. Per avere informazioni basta guardare www.beniculturali.it, il nostro sito, potete spendere qualche minuto o qualche ora varcando la soglia di un museo, siete le benvenute. È stato condannato a 3 anni e 3 mesi Ivan Bogdanov, il terribile, lo ricorderete, uno dei 4 ultra serbi processati oggi con rito abbreviato per gli scontri allo stadio Ferraris di Genova, scontri che provocarono la sospensione della partita Italia-Serbia del 12 ottobre scorso. Tempo di verdetti intanto, oggi in Champions League la prima a decidere il suo destino sarà la Roma stasera nel gelo di Donetsk in Ucraina. Per passare ai quarti di finale i giallorossi dovranno ribaltare il 2-3 subito all'Olimpico dello Shakhtar. Allora c'era ancora Ranieri in panchina, al suo posto ora l'ottimismo di Vincenzo Montella. Sono molto ottimista anche perché vedo che la squadra sta crescendo. Naturalmente sarà una partita difficile perché è una squadra valida, però ripeto, sono ottimista perché vedo la Roma in netta crescita. E probabilmente come valore assoluto del giocatore è anche superiore. Riflettori puntati anche sul Camp Nou di Barcellona, dove i catalani devono rimontare il 2-1 dell'andata con l'Arsenal. Tengo molto rispetto al signor Wenger, lo dico. Che l'anno passato dijeron che non llegaban y llegaron y dijeron que... Grande rispetto per l'Arsenal e le sue stelle, ma niente alibi, bisogna pensare solo alla vittoria. Pep Guardiola butta il cuore e le stampelle oltre l'ostacolo. Stasera al Camp Nou sarà regolarmente in panchina il mister del Barcellona, dopo 5 giorni passati in ospedale per una lombalgia acuta provocata da un'ernia del disco. Rimesso in piedi alla bella e meglio, Pep guiderà i Blaugrana contro i biancorossi, senza capire Capitan Pujol e il totem Piqué, i catalani non avrebbero potuto fare a meno anche del loro timoniere. I ragazzotti di Wenger, invece, illuminati dalla regia del catalano Fabregas, forti del 2-1 dell'andata, sono quanto di più simile al Barça si aggiri nel vecchio continente, per filosofia di gioco e tecnica individuale. Poi certo Messi, Xavi e Iniesta vestono Blaugrana e allora Barça pronto a far festa coi 90.000 del Camp Nou, come già accaduto contro i Gunners l'anno scorso. Ma occhio a non distrarre, altrimenti Guardiola potrebbe restare senza fiato e non solo per il colpo della strega. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione. Anna Rita D'Ambrosio e Fabio Cantaduri in regia vi lasciano in compagnia di Italia in Controluce. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.